Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Bentornati ai figli di Enea, benvenuti a questa trasmissione di Radio 24 che ogni settimana vi racconta un pezzetto di Italia attraverso gli italiani di origini straniere. Molti di voi magari in questo periodo stanno cercando di capire che cosa fare quest'estate, stanno organizzandosi per le vacanze, c'è anche la possibilità di fare delle vacanze solidali e per questo abbiamo chiamato un amico che riuscirà con noi a spiegarci qualcosa di più riguardo a queste vacanze solidali. È un italiano di origini straniere, Aliud Diop, benvenuto ai figli di Enea. Grazie dell'invito. Lei di base è a Milano, ma è senegalese di origine. Come mai è venuto in Italia innanzitutto? Ok, io sono arrivato a Milano nel lontano 1993, quindi 26 anni fa. La mia idea all'origine era di andare a Parigi, dove vive ancora mio fratello, però dopo diciamo una settimana avevo un parente che era qui a Bergamo, quindi tramite lui diciamo sono venuto qui, ma casualmente, e dopo una settimana mi sono piazzato a Milano e poi non mi sono più mosso, quindi oggi come oggi insomma posso anche definirmi milanese, perché a volte quando vado in Senegal insomma dopo un po' mi manca Milano, ecco. Allora, un milanese con origini senegalesi, possiamo definirla così? Sì, esattamente, sì, sono nato e cresciuto in Senegal fino all'età di 19 anni, quindi a 19 anni sono venuto qui in Italia. Si ricorda quando è partito da casa sua, qual era la situazione in quel momento in Senegal e perché è partito? Ma la situazione in Senegal era tranquilla, ma come tuttora oggi, Senegal è un paese insomma molto tranquillo, un paese dove non c'è stato né guerre né colpi di Stato né niente. Diciamo che il problema più grosso è riguardo un po' l'occupazione, il lavoro. Io all'epoca dovevo fare, ero l'anno della maturità, pensando alle possibilità di lavoro che c'erano dopo gli studi, allora io ho pensato di andare in Francia, continuare gli studi lì, e per poter insomma garantirmi un lavoro, un futuro, ecco. Che cosa aveva studiato in Senegal? Facevo il liceo classico, quindi facevo lingue, spagnolo, inglese e francese naturalmente. E quali erano i suoi sogni allora, quando era un giovane ragazzo? Il mio sogno era quello di fare o l'insegnante oppure di lavorare anche nel giornalismo, quindi queste erano le due cose in cui insomma, mi ero puntato. Poi vabbè, le cose sono cambiate, poi sono diventato altro, ecco. Una vita quindi difficile quella che fanno alcune persone in Senegal, perché moltissime persone sono emigrate verso l'Europa. Nel periodo in cui lei è arrivato in Europa, moltissimi senegalesi sono arrivati in Italia. Come è arrivato lei? Via aerea, con una barca? No, io sono arrivato via aerea, come dicevo sono passato dalla Francia, per cui avevo il visto Schengen che mi permetteva di arrivare in Francia, e poi dalla Francia sono venuto in macchina qui in Italia. All'epoca diciamo non era così difficile ottenere un visto, perché se tu riempivi tutte le condizioni che ti ponevano, un visto bene o male te lo davano, per cui era diverso. Oggi come oggi non c'è una via legale per arrivare qui, non c'è un modo di trovare un visto, anche se comunque tu fornisci tutti i documenti regolari che ti chiedono, comunque te lo possono negare un visto senza darti neanche una motivazione. Questo è il motivo per cui insomma molti prendono altre vie, che sono queste vie abbastanza pericolose. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ci sono amici e parenti che lei conosce dal Senegal che hanno tentato la via del mare per arrivare di recente? Sì, beh, io a parte che lavoro anche come mediatore culturale all'Opera San Francesco, dove insomma seguo questi ragazzi nel reparto di psicologia, quindi ne vedo tanti di storie, ne vedo tanti di ragazzi. Però diciamo, io ho un fratello che oggi vive in Spagna da ormai 10 anni, lui è arrivato col barcone, perché c'è stato quel momento in Senegal in cui diciamo è venuto fuori questa via che tutti, diciamo, molti giovani sono partiti coi barconi per arrivare alle Canarie, quindi è stato un momento anche abbastanza drammatico, nel senso che ci sono state molte vittime, soprattutto nella zona dei pescatori, perché anche lì diciamo la pesca dopo un po' che non andava più bene, perché con le licenze che si fanno con le grandi navi eccetera eccetera, i pescatori erano abbastanza disperati, per cui quando si è saputo di questa possibilità molti hanno preso le loro piroghe e sono partiti verso la Spagna. Per fortuna questa situazione è rientrata, perché comunque c'è stata una campagna di sensibilizzazione da parte dei media, da parte degli artisti e così via, per cui oggi qualcuno ancora tenta di partire per quella via lì, però diciamo ce n'è meno. Poi ci sono molti ragazzi che arrivano dalla Libia, ma perché semplicemente loro volevano fare un altro percorso, e poi alla fine girando si sono trovati in Libia, e poi dalla Libia vengono qui, per cui insomma le storie sono tante, sono dolorose, sono difficili, però sono comunque storie di gente che ha voglia di costruirsi un futuro, ha voglia di lavorare e di avere una speranza nella vita, ecco. Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin, giornalisti si moltiplicano gremlins, ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici, no non è radio friendly, sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party, ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi, questi fanno le storie col tavolo degli altri, e vado down, down, down, bella atmosfera, yeah, yeah. Avrà sentito anche lei che c'è stato poche settimane fa un ventenne originario del Senegal, ma che vive a Palermo, che è stato picchiato, è stato insultato. Le è mai capitato di vivere una situazione, non dico così grave, ma una situazione in cui si è sentito discriminato? Allora, a me personalmente non è mai capitato un episodio insomma di abbastanza rilevante rispetto a questo tema. Ovvio che ogni giorno diciamo, uscendo con il clima che c'è, diciamo, c'è quel tipo di razzismo sottile, no? Anche a volte così sembra una roba di niente, in realtà, cioè io lo vedo, lo noto, lo sento quando entri nella metropolitana, la signora che ti vede, che te tiene stretta la sua borsa, no? Quindi questo clima di paura che c'è in giro, e lo sento, lo vedo, e vedo una grande differenza rispetto ai primi tempi che ero qui in Italia. Quindi insomma la situazione è cambiata, oggi come oggi veramente molti hanno il coraggio di fare cose che prima non si permettevano, perché semplicemente diciamo stato sdoganato da qualche politico per suoi propri interessi, quindi diciamo il clima oggi a me fa abbastanza paura quando sento questi episodi, così come quello di Palermo, come tante altre, e io a volte penso che mi potrebbe anche capitare, quindi io stesso sento questo clima di paura che mi mette anche paura in qualche modo, no? Quindi è un po' questo. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in good time, in good time, bella atmosfera, yeah, yeah, yeah, yeah. Non mi uccidere il muta. Ci fermiamo brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei e con questo racconto di italiano, milanese, dicevamo, originario del Senegal, tra pochissimo. I figli di Enea. Questa sera siamo con un ospite che si chiama Aliou Diop, organizza viaggi in Senegal, viaggi particolari, viaggi solidali, viaggi che possono far riflettere anche e far vedere del paese degli aspetti che magari noi non conosciamo. Da quanto tempo innanzitutto organizza questi viaggi in Senegal per italiani che vogliono approcciarsi a questo paese in maniera diversa, vogliono approcciarsi all'Africa in maniera diversa? Sì, lavoro con questa associazione che si chiama Sunugal, un'associazione italo-senegalese che lavora sia in Italia sia in Senegal. In Senegal abbiamo vari progetti di cooperazione sull'agricoltura, sulla sartoria, sulla formazione, eccetera, eccetera. In Italia lavoriamo molto sull'intercultura. Oggi gestiamo un centro internazionale di quartiere dove facciamo tante attività culturali, dei concerti, presentazioni libere, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto diciamo che c'è stata la richiesta, anche la voglia da parte nostra di far scoprire il Senegal, quindi da lì è nato questo progetto che si chiama Andem in Senegal, perché semplicemente... Lombardo, insomma, Andem in Senegal. Sì, perché è strano, ma il caso vuole che anche per dire andiamo in Wolof, che è la lingua del Senegal, si dice Andem, quindi insomma ho preso questo nome come diciamo come anche simbolo, no? Come simbolo di ponte tra i due paesi. E quindi dal 2015 gestisco io questo progetto di Sunugal, e due viaggi all'anno, uno a dicembre e uno ad agosto, in cui portiamo la gente a scoprire il Senegal, però un viaggio diverso, un viaggio di turismo sociale dove si è molto in contatto con le realtà, si fanno tanti incontri con le associazioni, si fanno alcune attività di piantare alberi piuttosto che di partecipare anche a alcuni laboratori di associazione delle donne, piuttosto che andare nei campi delle donne a aiutarle, insomma, a irrigare, a fare queste attività qui. Io lo definisco il viaggio dei quattro colori, per cui ci abbiamo l'arte, la cultura, e poi abbiamo la cooperazione, abbiamo la parte natura, la parte mare e isole, per cui è veramente un mischio. Adesso ho descritto le attività di piantare alberi, però diciamo questo è una parte, per cui si cerca veramente di toccare il Senegal a 360 gradi, anche se in 15 giorni insomma non è tantissimo, però diciamo si riesce abbastanza a capire veramente il Senegal, a conoscerlo, a capire come vive la gente, eccetera, eccetera. Andiamo anche nei luoghi dove turistici, dove comunque ci sono monumenti, ci sono musei, eccetera, eccetera. E il Senegal devo dire che è un paese facile, tutti quelli che tornano hanno voglia di ripartire perché si trovano bene, perché insomma sono spesso colpiti anche dall'ospitalità dei senegalesi, l'apertura dei senegalesi, ecco. Sembra la fine del mondo, ma mi calma, mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. I senegalesi in Italia sono tanti, perché hanno iniziato ad arrivare negli anni 80 e quindi la diaspora senegalese conta ormai più di 100.000 persone. Allora, i senegalesi in Italia è vero, sono tanti, anche se andiamo a vedere rispetto a tante altre comunità sono meno delle altre tante comunità, però diciamo che il senegalese diciamo essendo uno comunque abbastanza aperto si fa notare di più, per cui i senegalesi qui spesso si organizzano in associazione, fanno delle cose insieme, fanno tanti progetti per anche il paese d'origine. Io come Aliu, che faccio parte di Sunugal, noi partecipiamo a diverse reti di associazioni di senegalesi, abbiamo la federazione anche delle associazioni senegalesi del nord Italia, c'è anche una federazione nazionale di tutte le associazioni dell'Italia, per cui si cerca di organizzarci, di fare progetti sia qui sia anche in Senegal. Quindi è una comunità vivace. Sì, sì, i senegalesi sono abbastanza vivaci da questo punto di vista, insomma sono abbastanza uniti nonostante le difficoltà, perché a volte è sempre difficile mettere tante teste insieme, no? Però diciamo che comunque c'è questa voglia di unirsi, di fare delle cose insieme e così via. La presenza della cinesi e della Cina in Senegal è abbastanza forte, come in altri paesi africani d'altra parte. Da questo punto di vista avete delle paure riguardo al coronavirus? Ma allora, il Senegal, ma come tanti paesi africani, oggi vede insomma la presenza di cinesi abbastanza forte. A Dakar abbiamo una Chinatown che sta nascendo. Devo dire che contrariamente al Chinatown di Milano, ad esempio, devo dire che i cinesi lì sono abbastanza molto aperti, si mischiano con la popolazione, ci sono matrimoni, sono cose per cui sono accolti bene anche loro. Comunque devo dire che tutto sommato insomma si stanno integrando abbastanza. Ma rispetto al virus, certamente il governo ha preso insomma delle misure per tutelare anche la popolazione, per cui chi torna dalla Cina viene controllato eccetera eccetera, però diciamo non c'è questa paura diffusa per cui se io vedo un cinese mi devo scappare, assolutamente no. Si facciamo prendere dalle notizie e a volte si esagera, ovviamente bisogna essere attenti, però da lì a scappare da ogni cinese che vedi mi sembra abbastanza esagerato, ecco. Sembra la fine del mondo. Lei diceva che si sente più milanese quasi che italiano. Com'è radicato nella città di Milano? Che cosa la fa sentire milanese, ad esempio? Io ho vissuto più tempo a Milano che nella mia città Dakar, no? Per cui Milano la conosco bene, le mie attività sono qui a Milano, quando mi muovo a Milano insomma sono tranquillo, mi sento a casa. Poi come dicevo prima, noi abbiamo questo centro che gestiamo a Milano in zona Corvetto, in un quartiere di periferia, dove comunque ci siamo aperti verso il quartiere, organizziamo tanti eventi verso il quartiere. Milano la sento mia, quando, come dicevo prima, quando vado fuori dopo un po' mi manca un po' questa parte, no? Se dovesse dire la cosa che è stata più difficile per lei quando è arrivato in Italia, che cosa direbbe? La solitudine, ecco, perché quando, partendo dal Senegal, il Senegal è un paese dove comunque vedi gente tutti i giorni, sei in contatto con un sacco di gente, la gente entra, esce dalle case, quindi arrivare qui e non conoscere nessuno, non conosce neanche la lingua, per cui fai veramente fatica, per cui all'inizio veramente io ho sofferto molto di solitudine, non hai amici, non hai conoscenti e questo veramente ti fa sentire solo, perché come dicevo in Senegal non sei mai da solo, no? E quindi questa è la cosa che un po' mi ha toccato di più ai primi tempi. Poi dopo man mano insomma uno esce, fa delle cose, conosce, e oggi come oggi insomma conosco tantissime persone, tantissimi amici, e così questa cosa diciamo è superata, però all'inizio sì, è veramente difficile queste cose qua. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party, mi cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi, questi fanno le storie col tavolo degli altri e vado down down down. Bella atmosfera. Yeah, yeah. È stato recepito la sua idea dei viaggi solidali, dei viaggi culturali in Senegal? C'è attenzione? Stanno avendo successo? Sì, allora io dal 2015 che ho iniziato, adesso agosto, dicembre scorso ho fatto l'undicesimo viaggio, perché veramente c'è richiesta, oggi come oggi non faccio neanche tantissima fatica per trovare la gente, perché anche se comunque noi facciamo gruppi piccoli, perché insomma è meglio eccetera di 10 persone, però diciamo che c'è molto richiesta. Poi ripeto, il Senegal essendo un paese molto stabile, molto tranquillo, oggi come oggi molti italiani insomma tendono ad andare verso il Senegal. Prima c'erano, che ne so, fino a 10 anni fa, quando andavi in Senegal vedevi francesi, spagnoli e basta. Oggi come oggi gli italiani stanno andando molti in Senegal, e questo grazie anche ai contatti dei migranti, amici eccetera, anche progetti come il nostro. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla, voglio stare in casa, tutto bene, tutto a gonfie vele, certi amici meno li vedi e più li vuoi bene, no con chi non ti chiede come stai. E quindi andiamo in Senegal, e molti altri progetti in tutta Italia ci saranno nei confronti di altri paesi che si possono visitare non in maniera turistica ma approcciandosi in maniera più vicina alla popolazione locale. Grazie davvero per essere stato con noi e per averci raccontato come vengono organizzati questi viaggi e come vive in Italia un italiano di origini senegalesi. A proposito, Aliou, lei ha la cittadinanza ormai italiana? La cittadinanza, ho fatto la richiesta, sto aspettando. E quindi siamo in attesa, no. Siamo in attesa. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e alla prossima. Grazie a tutti voi per essere stati in ascolto. A sabato prossimo, da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.